Absolute Beginners, la musica emergente su Radio Città Fujiko. E buon pomeriggio a tutti, e se non l'avete capito già dalla sigla, questo è Absolute Beginners, che torna come ogni settimana a parlare di musica emergente. Io sono Eleonora. Io invece sono Chiara. Ciao Eleonora e buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo allora a parlare di musica. Tra l'altro ormai siamo vicini all'inizio, diciamo, della grande programmazione estiva bolognese con il biografo e il cavaticcio. Siamo già pronti a quella tenda che sposteremo di sera in sera. Potremmo anche fermarci a dormire lì direttamente. Esatto, questo perché ve l'anticipiamo già, chiuderemo la puntata andando a riprendere un album d'esordio di uno degli artisti che saranno presenti al Biography Film Festival a giugno, ma non vi anticipiamo nient'altro. Passiamo invece alle nostre interviste settimanali e iniziamo andando a riascoltare una cantautrice romana giovanissima che quest'anno è uscita con l'album Touché. Forse l'avete sentita di recente a Bologna, perché è stata ospite del Mishmash Festival al TPO, oppure l'avete sentita a Milano al Miami. Parleremo dunque con Mesa e del suo album Touché. E poi invece cambiamo territorio, andiamo in Irpinia con il cantautore Gianpaolo Faia, che invece ci presenta Vuoto Sincronizzato. Iniziamo allora con Mesa, la prima intervista di questa settimana, e ci andiamo ad ascoltare Un esercito orizzontale. Nelle strade a senso unico, disseminati come birilli, aspettare la prossima palla, rotolarci addosso. Dentro le biblioteche delle università, a risolvere equazioni di terzo grado sul diventare grandi e forti e non avere paura dei numeri. Ma ci pensi che a 25 anni tua madre si è sposata? Respirare, spostare i pianeti con la forza del pensiero, come un esercito orizzontale, sdraiati sull'erba, guardiamo ad Absolute Beginners a Mesa. Ciao Mesa, grazie per essere qui con noi. Ciao, grazie a voi per avermi invitata e chiamata. Allora, abbiamo appena ascoltato un estratto del tuo album uscito questo marzo, Touché, che viene dopo un EP uscito l'anno scorso omonimo. Ecco, volevo intanto parlare subito di quest'album, perché è uscito da poco e lo hai anche presentato a Roma non tanto tempo fa. Ti volevo chiedere di raccontarci un po' com'è andato questo primo lancio. Sì, allora noi il disco è uscito il 2 e lo abbiamo suonato per la prima volta interamente dal vivo a Roma il 9, quindi la settimana seguente, e è andata molto bene. Siamo contenti della ricezione su Roma, che comunque è la nostra città, quindi adesso iniziamo ad andare fuori. Per esempio, fra 2 settimane siamo a Milano a presentarlo all'OIPO e vedremo come si evolve. Per adesso io sono molto contenta di come sta andando. Ecco, parlavi di Roma e volevo subito passare a una cosa che mi ha fatto abbastanza ridere. Ho letto un po' di te prima di sentirci per questa intervista e ho letto una bio che non so se hai scritto tu o se ha scritto magari qualche giornalista, che iniziava così. Te la volevo leggere un attimo, sì, così poi la commentavamo. Mesa è nata a Roma e a Roma è sempre stata, anche se sta ancora cercando di sviluppare un livello di romanità convincente. Allora, io volevo sapere come quali strategie stai usando. Allora, io sì, ovviamente l'ho scritta io questa cosa ironicamente, nel senso che io sono nata a Roma, però ho iniziato a vivere la mia città veramente da un punto di vista, diciamo, sociale, di aggregazione, tra virgolette, da quando ho questo progetto, e quindi per forza di cose mi sono spinta verso il centro città, perché io abito, diciamo, a Roma Sud, in periferia, e quindi giocavo su questo aspetto qua quando ho scritto questa cosa. Diciamo che non sono, ecco, una romana esperta di tutti i posti, locali, le serate, lo sto diventando adesso con un po' di ritardo. Ho capito. Prima di iniziare questo tuo nuovo progetto cantautorale Mesa, tu hai fatto, diciamo, la classica gavetta in inglese. Ti volevo chiedere, visto che spesso accade che a un certo punto si sente l'esigenza di cominciare a cantare in italiano, che magari non è neanche il primo istinto, tu ci puoi raccontare un attimo brevemente come mai c'è stato questo passaggio? Ma guarda, io ho sempre solo ascoltato dall'adolescenza in poi musica americana e inglese, e quindi per me l'istinto naturale era quello di approcciarmi con quella musicalità là. Fin quando poi ho provato un po' per gioco, un po' per curiosità, perché ho sentito delle cose in italiano che mi erano sconosciute, che mi sono piaciute tantissimo, a provare a esprimermi nella mia lingua. Sono contenta di aver fatto questo switch, perché sicuramente parla molto più direttamente a chi ti ascolta, oltre la melodia e oltre la musica e gli arrangiamenti, ecco. Certo, e tornando appunto su Touché, il tuo nuovo lavoro. Allora, di recente ho letto una tua intervista uscita per XL Repubblica, dove ti definivano il tuo stile gentile ma potente. Ti ci ritrovi? Ma sì, mi piace, mi è piaciuta questa definizione, nel senso che alla fine io ho unito due cose che mi piacciono tanto: il rock americano degli anni 90, cioè dagli anni 90 in poi, diciamo, ha invece un folk un pochino più sussurrato, un pochino più malinconico, ecco, quindi si vede che questa crasi di ascolti poi si vede anche in come io mi pongo, scrivo, suono e arrangio i pezzi, quindi mi rivedo molto in questa cosa qua. E parlando un po' del panorama del cantautorato femminile, ci sono delle tue colleghe che ascolti particolarmente, magari anche una con cui vorresti collaborare se potessi? Purtroppo siamo poche, quindi questo lo sappiamo tutti e me ne dispiace ovviamente. C'è una persona in particolare, un artista in particolare che mi piace molto e che in qualche modo mi ha anche spinto a passare all'italiano, che è Maria Antonietta. Ecco, se ti devo dire un nome femminile del panorama indie italiano ti dico di lei, però ovviamente poi ci stanno anche altri nomi come la Consoli, ovviamente, che non è prescindibile, insomma, secondo me, ma anche per esempio Cristina Donà, se vogliamo parlare comunque di donne che hanno fatto la storia più che fare il presente. Certo, infatti Cristina Donà è stata anche nominata più volte nelle recensioni anche del tuo album, perché comunque c'è qualcosa che rimanda a una grandissima cantautrice, tra l'altro. Ti ringrazio per essere stato qui con noi. Adesso noi ci andiamo ad ascoltare un singolo estratto da Touché, Oceano Letto. Sempre era Iene di Giampaolo Faia che abbiamo qui con noi. Ciao. Ciao. Allora, è appena uscito il 18 di maggio il tuo album d'esordio come solista, Vuoto Sincronizzato. Ma mi pare di capire che la tua esperienza musicale non comincia quest'anno, giusto? È giusto. In realtà suono da tutta la vita. Ho avuto un'esperienza molto importante con una band che si chiamava Plasmodium e io ero il tastierista e arrangiatore back vocalist, e poi avevo l'esigenza comunque di esprimermi totalmente senza legami, quindi ho fatto un percorso di studi di perfezionamento anche in produzione, soprattutto in musica elettronica. Ho messo tutto me stesso in questo progetto Vuoto Sincronizzato, che si è concretizzato dopo un percorso lungo molti molti anni. Bene, questo approdo all'elettronica infatti un po' si nota dal tuo album, anche se ho letto, non so se sia una tua definizione o se te l'abbiano affibbiata, che sei un songwriter. Ma ti posso chiamare cantautore o sono cose diverse? Ma guarda, va benissimo songwriter, cantautore, mi sento un po' tutto. Diciamo che per me la musica è onnicomprensiva. Io compongo, scrivo testi, canto le mie canzoni, le arrangio e suono quasi ogni cosa. Quindi nel CD, nell'album, la maggior parte degli strumenti li ho scritti sostanzialmente io e ho suonato tutte le sezioni tastieristiche ed elettroniche, oltre a programmazioni di batterie e di sequenze. Ho capito, e anche i testi li scrivi tu, no? Sì, sì, assolutamente sì, amo la scrittura. Infatti, diciamo, il percorso di studi che ho fatto tempo fa universitario è comunque in comunicazione, quindi io necessito di esprimermi, cioè creare ed esprimermi è un qualcosa di vitale per me. Ho capito, ma invece tornando sui testi, io li ho trovati anche un po' incazzati, diciamo. Ad esempio a chi ti riferisci in Iene che abbiamo ascoltato prima? Beh sì, alcuni testi sono un po' incazzati, è vero. Diciamo che sono mediamente abbastanza pessimista di natura, ma ho qualche speranza per il futuro, non tantissima ma ce l'ho. E Iene l'ho scritto qualche anno fa, mi capitò di vedere in TV un comizio, una tribuna politica. Puoi immaginare diciamo l'incazzatura che mi venne nel guardare sempre le stesse parole ripetute da anni. Cambiamenti di qua, situazioni di là, progresso di qua, progresso di là, e alla fine diciamo ci siamo ritrovati per anni e anni sempre le stesse facce. Non faccio una distinzione di colore politico, assolutamente, è un discorso un po' più generale, e quindi lì mi scattò, diciamo, il nervoso, come si suol dire. Feci questo testo molto diretto, anche se generalmente i miei testi sono meno diretti, sono più generici, ma lì non mi trattenni sostanzialmente. Ho capito, tra l'altro dopo questo discorso mi verrebbe da chiederti se sei contento della situazione attuale del governo, ma poi andiamo fuori tema, quindi non si può... Sì, dai, andiamo fuori tema, pensiamo e concentriamoci sulla musica, esatto. È quella che non ci tradirà mai. Ho capito, parlavi prima di comunicazione, che mi pare sia anche un po' il tema del tuo singolo, Un Corpo Davanti, giusto? La difficoltà di comunicare, come mai appunto hai affrontato questo tema? Beh sì, è un tema a cui tengo particolarmente, tengo molto ai rapporti interpersonali, all'amicizia, e mediamente noto diciamo un distacco delle persone dal senso stesso della parola attualmente, soprattutto dovuto a un eccesso di mediazioni, tecnologia eccetera. Io provengo da una piccola realtà di provincia, vivo a Roma, ma vengo dalla provincia di Avellino. Sento molto il legame con i miei vecchi amici e anche con i nuovi ovviamente, ma tengo molto a questo rapporto interpersonale, e vedo che generalmente comunque i rapporti attualmente tendono un po' a scemare, ad essere un po' più, come dire, non dico farlocchi, però un po' più tecnologici, meno naturali. Questo per me è un peccato. Ciò non toglie che comunque sia, non è tutto da buttare, c'è la possibilità di connettersi a destra e manca, e ciò è bellissimo. Io ho conosciuto delle persone tramite i social e si sono esplorate delle bellissime situazioni. Il problema può essere un abuso di determinate situazioni che tolgono un po' la realtà dei rapporti, quindi il problema della comunicazione è un problema a cui tengo particolarmente. Sempre a proposito di social e tecnologia, prima di salutarci ti chiedo di suggerire a tutti dove ascoltare la tua musica, ma poi soprattutto se ci sono delle date live dove venirti a sentire. Certamente, allora la mia musica si trova su tutti i digital store, quindi da Play Store, iTunes, passando per Spotify. Il video del singolo è disponibile anche su YouTube. Come date live farò una prima data live il 20 giugno a Roma, in un locale molto in voga a Roma, si chiama Le Mura. Poi spero di poter suonare questo anche a Bologna, perché ho molti amici lì, è una città che mi piace tantissimo, ci sono stato spesso e conto di tornarci presto, quindi se sarò lì spero che mi verrate a vedere, a sentire, mi farebbe molto molto piacere. Certo, se passi da Bologna assolutamente ci vedremo lì. Io ti ringrazio molto di questa chiacchierata e adesso ci andiamo ad ascoltare Un Corpo Davanti. Ciao! Certezze, solo sogni e insicurezze, vivo dentro un'ossessione, come fosse una prigione, siamo come stelle cadenti, con traiettorie differenti, troppa comunicazione. Ma è soltanto un'illusione, siamo solo parole inutili che diventano sabbie. Avete appena ascoltato Un Corpo Davanti di Faia, con la quale si chiudono le interviste di questa settimana di Absolute Beginners, una puntata dedicata ai giovani cantautori. Avevamo ascoltato prima Mesa, adesso invece siamo arrivati alla parte finale e, come avevamo anticipato, questa settimana chiudiamo con l'album d'esordio di uno dei prossimi ospiti del Biografilm. Stiamo parlando di Bombino, che sarà ospite del Cavaticcio l'11 giugno. Il suo album d'esordio del 2009 si chiama Group Bombino Guitars from Agadezze. Lo fai apposta, Eleonora, a farlo dire a me, è ovvio. Lascio a te questo ingrato compito. E dicevamo appunto Bombino, che avremmo presto occasione di riascoltare qui a Bologna. Fra l'altro io ho un ricordo purtroppo non felicissimo di un concerto di Bombino che venne, se non sbaglio, nel 2014 al Locomotive, per un concerto che andò sold out, in cui io sono praticamente svenuta e di cui ricordo quindi poco. Ma voi vi chiederete perché è svenuta, ve lo dico io, è perché è molto bassa, voi non la vedete, ma è alto 1,50. Esatto, voi persone molto alte che frequentate i concerti, ecco, insomma, ricordatevi che esistiamo anche noi, anzi non capisco perché i concerti non funzioni come con le foto di classe, che più bassi vanno davanti, però insomma è una proposta che potremmo lanciare. Lanciamo un appello, esatto. Ai concerti persone in ordine d'altezza. Insomma, rifletteteci, noi invece adesso ci salutiamo con un brano dell'album d'esordio l'esordio di Bombino, che ovviamente ti lascio dire. Ovviamente, figuriamoci, Ami di Nine. Ecco, e con Ami di Nine noi ci salutiamo, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Absolute Beginners, sempre di mercoledì alle 14.30, e vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook Absolute Beginners RCF per riascoltare i podcast delle nostre puntate.